Il terzo anello ad alta voce, il circolo Pickwick di Charles Dickens. La mattina dopo, molto più presto di quanto non fosse abituato ad alzarsi, Mr. Pickwick scese le scale completamente vestito e suonò il campanello. «Sam?» disse Mr. Pickwick quando Mr. Weller rispose alla chiamata. «Chiudete la porta!» Mr. Weller eseguì. «Sam, ieri sera è accaduto un infelice episodio», disse Mr. Pickwick, «per cui Mr. Winkle ha motivo di temere qualche violenza da parte di Mr. Dowler». «Ne ho sentito parlare dalla vecchia in cucina, signore», rispose Sam. «E sono dolente di dover dire, Sam», continuò Mr. Pickwick con un'aria molto imbarazzata, «che per paura di questa violenza Mr. Winkle è fuggito». «Fuggito», disse Sam. «Ha lasciato la casa questa mattina all'alba, senza una parola di avvertimento», rispose Mr. Pickwick. «E dove si è andato? Nessuno lo sa». «Avrebbe dovuto fermarsi e battersi, signore», rispose Sam con disprezzo. «Non dovrebbe essere molto difficile mettere a posto quel Dowler, signore». «Ebbene, Sam», disse Mr. Pickwick, «posso anche avere i miei dubbi sul suo coraggio e sulla sua decisione, ma comunque sia, Mr. Winkle se n'è andato. Bisogna ritrovarlo, Sam, ritrovarlo e riportarmelo indietro». Sam fece un cenno d'intelligenza e, ritirato il capo dalla porta, partì per il suo pellegrinaggio a cuor leggero. Sul sentiero, lungo i muri di cinta, si aprivano tre o quattro porte che appartenevano ai giardini di altrettante case, separate l'una dall'altra e confinanti proprio mediante quei giardini. Sam sedeva là con gli occhi fissi sopra un mucchio di spazzatura, quando una porta si aprì e una domestica uscì sul sentiero per sbattere alcuni scendiletto. Sam era così immerso nei suoi pensieri che probabilmente non avrebbe prestato alla fanciulla maggiore attenzione di quanta ne occorreva per alzare la testa e notare che era molto graziosa e ben fatta, se i suoi sentimenti di cavalleria non fossero rimasti colpiti nel vedere che non c'era nessuno ad aiutarla e che i tappeti sembravano troppo pesanti per le sue forze. Mr. Weller era molto galante a modo suo e non appena ebbe notato la cosa si alzò di scatto dalla grossa pietra e le si accostò. «Mia cara», disse Sam, facendosi avanti con aria di grande rispetto, «questo vostro grazioso corpicino si malmenerà tutto se volete sbattere quei tappeti da sola. Posso aiutarvi?» La signorina, che timidamente aveva finto di non accorgersi della vicinanza di un uomo, si voltò alle parole di Sam. «E senza dubbio», lo disse lei stessa più tardi, per declinare l'offerta che le veniva da uno sconosciuto. Ma invece di parlare, fece un salto indietro con un grido mezzo soffocato. Sam non era meno stupito di lei perché nel volto della graziosa cameriera aveva visto gli stessi occhi della sua Valentina, la bella domestica di Mr. Napkins. «Voi, Mary, mia cara!» disse Sam. «Oh, Mr. Weller!» disse Mary. «Che spavento mi avete fatto!» Sam non diede risposta verbale a questa lamentela, né potremmo dire precisamente che genere di risposta diede. Sappiamo soltanto che dopo una breve pausa Mary disse: «Dio mio, basta, Mr. Weller!» e che il cappello di lui era caduto qualche momento prima, indizi dai quali siamo portati a inferire che un bacio o più siano stati scambiati fra le parti. Thank you. Capitolo 40, che mette Mr. Pickwick davanti a una scena nuova e non priva di interesse nel grande dramma della vita. Il resto del periodo che Mr. Pickwick aveva stabilito di passare a Bath trascorse senza che accadesse nulla di notevole. La sessione estiva del tribunale si era aperta. Dopo la prima settimana Mr. Pickwick e i suoi amici tornarono a Londra e il primo, insieme a Sam naturalmente, prese subito possesso del suo antico alloggio al Giorgio e Avvoltoio. Il terzo giorno dopo il loro arrivo, proprio mentre tutti gli orologi della città battevano le 9 se considerati individualmente e tutti insieme le 999 circa, Sam stava prendendo una boccata d'aria in George Yard quando uno strano tipo di veicolo dipinto di fresco si fermò là davanti e ne uscì fuori con grande agilità, gettando le redini a un uomo massiccio che sedeva accanto a lui, uno strano tipo di signore che sembrava fatto apposta per il veicolo e il veicolo per lui. «Buongiorno, cara», disse l'uomo rivolgendosi alla signorina del bar con una disinvoltura degna del penitenziario di Botany Bay e una gentilezza adatta a quella della Nuova Galles del Sud. «Qual è la camera di Mr. Pickwick, cara?» «Accompagnatelo di sopra», disse la barista rivolta al cameriere, senza degnare il bell'imbusto di un altro sguardo. Il cameriere si diresse al piano di sopra, come gli era stato detto, e l'uomo dal cappotto ruvido gli andò dietro, seguito da Sam, che lungo le scale si abbandonò a una ricca mimica, in segno di sfida e supremo disprezzo, con indicibile godimento della servitù e degli altri spettatori. Mr. Pickwick dormiva ancora, quando il suo visitatore mattiniero, seguito da Sam, entrò nella stanza. Il rumore che fecero entrando lo svegliò. «L'acqua per la barba, Sam!» disse Mr. Pickwick da dietro le cortine. «Radetevi in fretta, Mr. Pickwick!» disse il visitatore scostandone una dalla spalliera del letto. «Ho qui un mandato d'arresto contro di voi su richiesta di Bardell. Ecco l'atto, Tribunale di Common Pleas. Questo è il mio biglietto da visita.» La carrozza percorse Fleet Street traballando, come sempre le vetture di piazza hanno fatto. Mr. Pickwick sedeva di faccia alla guardia e la guardia sedeva col cappello fra le ginocchia, fischiando un'arietta e guardando fuori dal finestrino. Il tempo fa miracoli e con l'aiuto di questa vecchia potenza anche una vettura di piazza riesce a coprire mezzo miglio. Si fermarono alla fine e Mr. Pickwick scese davanti al portone d'ingresso della Fleet. Il gendarme, guardando al di sopra della spalla se il prigioniero lo seguiva dappresso, precedette Mr. Pickwick nella prigione. Voltando a sinistra, dopo essere entrati, passarono attraverso una porta aperta in un atrio, chiuso da un pesante portone che stava di fronte a quello d'ingresso e che era sorvegliato da un robusto secondino con la chiave in mano, e attraverso di esso si trovarono finalmente nell'interno. «Dove debbo dormire stanotte?» chiese Mr. Pickwick. «Beh, stanotte non saprei», rispose il robusto secondino. «Domani sera vi metteremo con qualcuno e allora avrete ogni comodità. La prima notte di solito si passa come si può, ma domani tutto andrà a posto.» Parlando, si venne a scoprire che uno dei secondini aveva un letto da affittare e poteva darlo a pagamento per quella sera. Mr. Pickwick fu ben lieto di prenderlo. «Se venite con me ve lo mostrerò subito», disse l'uomo. «Non è molto grande, ma per dormirci non ce n'è un altro. Da questa parte, signore.» Passarono attraverso il portone interno e scesero alcuni gradini. La chiave girò dietro di loro e Mr. Pickwick si trovò, per la prima volta nella sua vita, dentro le mura di una prigione per debitori. Tom Roker, l'uomo che aveva accompagnato Mr. Pickwick all'interno della prigione, voltò bruscamente a destra in fondo alla breve rampa di scalini e fece strada. Nei corridoi, e soprattutto per le scale, andava a zonzo una gran folla di persone che preferivano star fuori delle stanze, o perché erano vuote e solitarie, o perché erano calde e piene di gente. Nella maggior parte dei casi perché queste stesse persone erano inquiete e infelici e non possedevano il segreto di sapere esattamente che cosa fare di sé. C'erano molte categorie di uomini, dall'operaio con la giacca di fustagno al dissipatore rovinato in vestaglia di seta debitamente rotta ai gomiti, ma tutti avevano la stessa aria, quell'arroganza apatica e trascurata da galeotti, quel modo di fare da vagabondi impudenti, che non si può descrivere in parole, ma che balza subito agli occhi quando si metta piede in una qualsiasi prigione per debitori e si guardi la gente, il primo gruppo che si incontra, con lo stesso interesse di Mr. Pickwick. Non nasconderemo che Mr. Pickwick si sentiva molto depresso e inquieto, non per mancanza di compagnia, perché la prigione era piena zeppa, e una bottiglia di vino gli avrebbe procurato immediatamente la fraterna solidarietà di alcuni spiriti eletti, senza bisogno di formalità o di presentazioni, ma perché si trovava solo fra gente rozza e volgare, e provava quel senso di scoraggiamento e di angoscia che sono la naturale conseguenza del sapersi chiuso e messo in gabbia, senza nessuna prospettiva di libertà. L'idea di riacquistarla, cedendo ai raggiri di Dodson e Fogg, non gli passò nemmeno per la testa. Poi Mr. Pickwick continuò a passeggiare per tutti i corridoi, salì e scese tutte le scale e fece ancora una volta il giro completo del cortile. C'erano lo stesso squallore, lo stesso chiasso, lo stesso disordine, le stesse caratteristiche generali in ogni buco, nel migliore come nel peggiore. Sembrava che quel posto fosse inquieto e affannato dappertutto, e la gente si affollava e si spostava avanti e indietro come ombre in un sogno agitato. «Ne ho visto abbastanza», disse Mr. Pickwick quando si gettò su una sedia nella sua stanzetta. «Mi fa male la testa dopo questo spettacolo, e anche il cuore. D'ora in poi voglio restare prigioniero nella mia stanza». E mantenne fermamente la sua parola. Per 3 lunghi mesi restò chiuso in camera tutto il giorno, uscendo solo di notte, segretamente, a prendere un po' d'aria, quando la maggior parte dei suoi compagni di prigionia erano a letto o a bere nelle loro stanze. La sua salute incominciava a soffrire per questa reclusione così rigorosa, ma né le preghiere più volte ripetute di Perker e dei suoi amici, né gli avvertimenti e le esortazioni ancor più numerose di Mr. Samuel Weller poterono smuoverlo di un pollice dalla sua inflessibile risoluzione. Capitolo 46esimo, nel quale si ricorda un atto commovente di delicata sensibilità, non disgiunta da un certo umorismo, compiuto ed eseguito dai signori Dodson e Fogg. Circa una settimana prima della fine di luglio, una carrozzella cabriolet, il cui numero resta imprecisato, fu vista avanzare di buon passo lungo Goswell Street. 3 persone vi stavano stipate dentro, oltre il cocchiere che sedeva nel suo seggiolino laterale. «Ma sì, è Mr. Jackson, quel giovanotto dello studio di Dodson e Fogg!» esclamò la signora Bardell. «No, Buon Dio, non è possibile che Mr. Pickwick abbia pagato i danni. O che voglia sposarvi, disse la signora Clappins. Mio Dio, come va piano quel signore, esclamò la signora Rogers. Non potrebbe andare più in fretta. Mentre la signora diceva queste parole, Mr. Jackson si allontanava dalla carrozza, dove si era trattenuto per dire qualcosa a un uomo malvestito, coi gambali neri, sceso anch'egli dallo stesso veicolo con un pesante bastone di frassino in mano, e si dirigeva verso il luogo dove si trovavano le signore, arricciandosi nel frattempo i capelli intorno alle falde del cappello. «È successo qualcosa? C'è qualcosa di nuovo, Mr. Jackson?» disse ansiosamente la signora Bardell. «Proprio nulla, signora», rispose Mr. Jackson. «Come stanno le signore? Devo chiedere scusa per il disturbo, ma la legge, signore mie, la legge...» Così giustificandosi, Mr. Jackson sorrise, fece un inchino circolare e si diede un'altra arricciata ai capelli. «I principali vi vogliono subito in città, signora Bardell». «Dio mio!» esclamò la signora sobbalzando per l'improvvisa notizia. «Sì», disse Jackson mordendosi le labbra, «un affare molto importante e urgentissimo che non può essere rimandato per nessun motivo. Dodson me lo ha detto chiaramente e così pure Fogg. Ho fatto aspettare la vettura apposta per voi per riportarvi indietro». «È molto strano», esclamò la signora Bardell. Le signore convennero tutte che era molto strano, ma furono anche dell'opinione che doveva essere molto importante, altrimenti Dodson e Fogg non l'avrebbero mandata a prendere. E inoltre, data l'urgenza della cosa, ella doveva andare senza indugio da Dodson e Fogg. La signora Bardell salì, Mr. Jackson salì dopo di lei e i cavalli partirono. La carrozza viaggiava e la signora Bardell si addormentò. Si risvegliò dopo un po' di tempo al fermarsi della carrozza. «Oh, santo cielo!» disse la signora. «Siamo già arrivati a Freeman's Court?» «Non dobbiamo andare fin là», rispose Jackson. «Abbiate la cortesia di scendere». «Che luogo è questo?» disse la signora Bardell fermandosi. «Non è che uno dei nostri uffici pubblici», rispose Jackson, spingendola frettolosamente attraverso una porta e guardandosi intorno per vedere se le altre venivano dietro. «Tenete gli occhi aperti, Isaac. Niente paura», rispose l'uomo col bastone di frassino. La porta si rinchiuse pesantemente alle loro spalle ed essi scesero una breve rampa di scale. «Ci siamo finalmente, adesso tutto è a posto, signora Bardell», disse Jackson guardandosi intorno con esultanza. «Che volete dire?» disse la signora Bardell col cuore che le batteva. «Semplicemente questo», rispose Jackson tirandola un poco da parte. «Non vi spaventate, signora Bardell. Non c'è mai stato un uomo più delicato di Dodson, signora, o più umano di Fogg. Era loro dovere, da un punto di vista professionale, procedere contro di voi per quelle spese. Ma erano ansiosi di risparmiare la vostra sensibilità per quanto fosse loro possibile. Che conforto deve essere per voi il modo in cui è stata condotta la cosa. Questa è la Fleet, signora. Buonanotte, signora Bardell. Buonanotte, Tommy». La signora Bardell diede un alto strillo. Tommy urlò. La signora Clappins si fece piccina piccina e la signora Sanders sparì senza far rumore, poiché là stava l'oltraggiato Mr. Pickwick, che prendeva la sua boccata d'aria notturna. E accanto a lui si trovava Samuel Weller, che nel vedere la signora Bardell si tolse il cappello con beffarda riverenza, mentre il suo padrone voltava sdegnato la schiena. «Non tormentate questa donna», disse il secondino a Mr. Weller. «È appena entrata». «Prigioniera anche lei», disse Sam rimettendosi prontamente il cappello. «Chi l'ha accusata? E perché? Sputate, vecchio mio!» «Dodson e Fogg», rispose l'uomo. «Esecuzione su Cognovit per le spese». Thank you. Puntualissimo, il mattino seguente, il piccolo e bonario avvocato bussava alla porta di Mr. Pickwick, premurosamente aperta da Sam Weller. «Mr. Perker, signore!» disse Sam annunciando il visitatore a Mr. Pickwick, che sedeva presso la finestra in atteggiamento pensoso. «Sono molto contento che siate capitato qui, signore. Ho l'impressione che il principale voglia scambiare due parole con voi.» Perker diede a Sam uno sguardo d'intesa, per segnalargli che aveva capito e che non avrebbe detto di essere venuto apposta, e facendogli cenno di avvicinarsi, gli sussurrò qualcosa nell'orecchio. «Dite sul serio, signore!» disse Sam facendo un salto indietro per la sorpresa. Perker annuì e sorrise. Samuel Weller guardò il piccolo avvocato, poi Mr. Pickwick, poi il soffitto e infine di nuovo Perker, fece un largo sorriso, rise apertamente e da ultimo, afferrato il cappello sul tappeto senza altre spiegazioni, scomparve. «Che significa questo?» chiese Mr. Pickwick guardando stupefatto Mr. Perker. «Che cosa ha ridotto Sam in questo stato?» «No, niente, niente», rispose Perker. «Su via, caro signore, tirate la vostra seggiola accanto al tavolo. Ho molte cose da dirvi.» «Che carte sono queste?» chiese Mr. Pickwick mentre l'ometto posava sul tavolo un piccolo fascio di documenti legati con un nastro rosso. «Le carte della causa Bardell contro Pickwick», rispose Perker, sciogliendo il nodo coi denti. Mr. Pickwick avvicinò la seggiola facendola strisciare sul pavimento. «Ho visto la donna stamani. Pagando le spese vi sarà restituita la libertà e condonato il risarcimento dei danni. E inoltre, ciò che ritengo sia molto più importante per voi, caro signore, avrete una dichiarazione scritta spontaneamente di suo pugno sotto forma di una lettera a me che tutto questo affare fu fomentato, incoraggiato e portato avanti fin dal principio da quei due, da Dodson e Fogg, che ella rimpiange profondamente di aver servito loro per recarvi disturbo e offesa, e che mi prega di intercedere presso di voi e implorare il vostro perdono.» «Tutto questo se pago le spese per lei?» disse sdegnato Mr. Pickwick. «Un documento di valore, veramente.» «Non c'è nessun se, caro signore», disse Perker con aria trionfante. «Ecco la lettera di cui stavo parlando.» Ma prima che Mr. Pickwick potesse rispondere e prima che Mr. Perker avesse annusato la ventesima parte del tabacco che comportava un discorso così insolitamente lungo, si sentì mormorare a bassa voce fuori dalla porta e poi bussare timidamente. «Uffa!» esclamò Mr. Pickwick, evidentemente scosso dalle parole del suo amico. «Che noia quella porta! Chi è?» «Io, signore!» rispose Sam Weller mettendo dentro la testa. «Non posso parlare con voi per adesso, Sam», disse Mr. Pickwick. «Sono occupato in questo momento, Sam.» «Chiedo scusa», insisté Mr. Weller. «C'è una signora qui che dice di avere qualcosa di molto privato da raccontarvi.» «Non posso vedere nessuna signora», rispose Mr. Pickwick, la cui mente era piena di immagini della signora Bardell. «Non lo direi con tanta sicurezza, signore», insisté Mr. Weller scuotendo la testa. «Se sapeste chi c'è qui vicino, credo che cambiereste tono, come diceva il falco fra sé ridendo allegramente mentre ascoltava il pettirosso cantare dietro l'angolo.» «Chi è?» chiese Mr. Pickwick. «Volete riceverla, signore?» chiese Mr. Weller tenendo la porta accostata, come se dietro ci fosse qualche curioso animale vivente. «Non posso esimermi, immagino», disse Mr. Pickwick guardando Perker. «Bene, allora si va a incominciare», esclamò Sam. «Suona la gran cassa, si alza il sipario ed entrano i due cospiratori.» Così dicendo, Sam Weller spalancò la porta ed ecco irrompere tumultuosamente nella stanza Mr. Nathaniel Winkle, trascinandosi dietro per mano la stessa signorina che a Dingley Dell calzava gli stivaletti guarniti di pelliccia e che in un piacevolissimo insieme di rossore, confusione, setalilla, cappellino e ampio velo ricamato appariva più graziosa che mai. «La signorina Arabella Allen!» esclamò Mr. Pickwick alzandosi in piedi. «No!» rispose Mr. Winkle cadendo in ginocchio. «La signora Winkle! Perdono, mio caro amico! Perdono!» Mr. Pickwick non poteva credere ai suoi occhi, e forse non ci avrebbe creduto davvero senza la testimonianza del volto sorridente di Perker e della presenza concreta sullo sfondo di Sam e della bella cameriera.